Buongiorno, sono Luca. Oggi è il 22 settembre 2020. Vi faccio un breve audio per farvi capire che quanto grande è il nostro potere di cambiamento se solo lo sappiamo esercitare e se ci crediamo. Come giustamente Tiziana Colazzuolo giorni fa diceva a tutti. Settimane fa una lavoratrice, madre, un genitore che è anche lavoratrice e che ha perfezionato degli studi, mi ha chiesto aiuto. Perché? Perché deve svolgere un tirocinio in un ambito sanitario. Allora, senza entrare nei termini privati della persona, quindi non dirò né dove né in che ambito di tirocinio, vi racconto brevemente cos'è accaduto. L'azienda sanitaria ha chiesto a questa persona di sottoporsi al tampone rinofaringeo per accertare la presenza o meno di infezione da virus SARS-CoV-2. Questa persona si è rifiutata di sottoporsi al tampone perché intanto è asintomatica e sana e perché ha intravisto in questa richiesta un vero e proprio ricatto. Infatti un ricatto è, siccome non c'è nessuna normativa di rango primario che imponga il tampone obbligatorio, giustamente mi ha chiesto aiuto e io le ho detto come rivolgersi a questa unità sanitaria e come è andata a finire? È andata a finire che praticamente questi medici, di fronte a una puntuale richiesta di delucidazioni e spiegazioni sul perché insistevano nel chiedere a questa persona di sottoporsi a un tampone, quando non esiste normativa di rango primario che imponga il tampone, normativa di rango primario ha un ben preciso significato nella gerarchia delle fonti. Questi medici a un certo punto si sono resi conto che forse la ragione non è dalla parte loro e quindi hanno preso tempo e hanno detto che si sarebbero rivolti all'ufficio legale preposto. Quindi per dimostrarvi che quando c'è in atto un sopruso, un abuso, non bisogna restare inermi, non bisogna restare congelati e compiangersi, piangersi addosso, essere remissivi. Vi posso raccontare altri episodi, ci sono già medici o infermieri che hanno rivendicato la stessa cosa e di fronte a un vero e proprio ricatto, quindi un personale che già operava all'interno di unità sanitarie, quindi una vera e propria richiesta perentoria di sottoporsi al tampone appena non si sa cosa, quindi un ricatto. Alcuni si sono rifiutati e l'hanno vinta, perché dopo alcuni mesi dirigenti sanitari ad alti livelli hanno ammesso il tampone è solo raccomandato, non è solo fortemente raccomandato, non è obbligatorio. Quindi queste persone, medici e infermieri, continuano a svolgere la loro professione senza essere costretti a sottoporsi periodicamente al tampone. Ovviamente parliamo di persone che sono sane, che sono asintomatiche, si recano al posto di lavoro rispettando le normali prassi igienico-sanitarie di buon senso, persone sane, che comunque rifiutano questo vero e proprio ricatto. Il tampone, è vero, è stato reso obbligatorio da alcune ordinanze, ma le ordinanze sono soggette a scadenza, che sia l'ordinanza ministeriale del Ministro della Salute, onorevole Roberto Speranza, che sia l'ordinanza di un Presidente della Regione, come il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, le ordinanze sono soggette a scadenza e non sono normativa di rango primario. Sulla salute, che è un diritto fondamentale dell'individuo e della collettività, esiste la riserva di legge assoluta e rinforzata. Se è stata introdotta dai padri costituenti e dalle madri costituenti, un motivo c'è. Non si tocca un meccanismo di tutela così delicato, no? Dall'oggi al domani. Ma non dobbiamo neanche pensarci che venga toccato. Non ci deve neanche passare per l'anticamera del cervello che venga toccato. E perché questo succeda bisogna difenderlo strenuamente. Allora, come questa persona si è rivolta a me e che l'ha vinta, ha fatto una mezza vittoria perché ha messo all'angolo due medici che si sono resi conto che non avevano le argomentazioni giuridiche per sostenere, no? Un confronto con questa persona che rivendicava un diritto soggettivo e un interesse legittimo, così come un membro del personale sanitario che conosco ha rivendicato il suo diritto, no, all'esercizio del principio consensualistico, ecco, noi dobbiamo fare altrettanto nella nostra vita quotidiana. Piccoli gesti, nessuna presa di posizione rabbiosa, piccoli gesti forti per ricordare che i diritti che godiamo per i quali persone che non sono più in vita hanno speso lacrime e sangue per consegnarceli. Questi diritti vanno affermati, vanno difesi. Non bisogna avere paura. Non abbiate paura di far valere i vostri diritti.